Non c'è nessuno? Sì, per me. Aspetta che devo scansare una cosa. Sì, c'è in aereo, ovvero. Ecco, adesso non si sente più. Cosa sto facendo? T'ho cercato stamane, ma eri staccato. Ah, la tua era la chiamata, perché non mi dà chi è più? Avevo tolto il chi è, perché mi toglievano 2 euro rotti, quindi non so chi è. Ehi Gianfra, ho finito per mezzogiorno e mezzo. C'erano 200 persone prima di me all'INAIL. C'è un'esenzione del ticket per il reddito di cittadinanza e quindi è pieno di gente sempre. Io devo fare un'esenzione a mia moglie, capito? E quindi ero lì, sempre lì fermo. No, io ti ho chiamato abbastanza tardi, erano 7:30, 8:20. C'era il telefono spento, no? Sì, ja. L'ho acceso quando sono uscito, verso le 8:30, perché ho sistemato il cane, infatti poi l'ho riportato anche a Luna, capito? Vabbè. E niente, mi ero al telefono con Carlo, mi chiama Monti, ho dato quel messaggio anche a lui, ha detto mi fa sapere. Secondo lui la quotazione è inferiore, perché quella te l'ho detto, è la prima serie Gianfra, non mi sbagliavo, è la prima serie, perché la seconda serie è l'SG-BX. Sì, vabbè, quello è per gli inesperti, ma in realtà è l'altra cosa, perché non ci hanno messo né niente in più né niente in meno, ci hanno cambiato, hanno messo una G in più, ma non ha senso, soprattutto con il nuovo aggiornamento, capito? Cioè adesso sai, di moda su tutte le cose, lasciare la sostanza com'è e cambiare il nome. L'esempio per tutti è il PD, ad esempio. È sempre la stessa cosa, magari cambiando il nome, però la mia è sempre la stessa, no? Sì, sì, infatti, anche per me. Mi faceva sapere, tanto vabbè, mi ha dato l'info, anche per sentire, ogni tanto ci sentiamo, quindi gli ho dato l'info che mi interessava, e niente. E vabbè, va bene, va bene. Ok, lo stavo dicendo, è un'altra cosa. Vabbè, tienilo in macchina quel coso, poi quando abbiamo 2 minuti ci vediamo. Ma vabbè, l'altro l'ho già caricato, il portatile. Mi manca solo quello che praticamente non c'è il cavetto da caricare, capito? Il cavetto da caricare? Ah, ma carica la batteria. Sì, carica batteria di quello che è senza carica batteria. Perché, ti ho detto, io ce l'ho. Ce l'ho io il cavetto che carica l'altro. Il Vox non ce l'ho. È uguale a quello che ho, quindi l'ho caricato con quello. Mentre carica batteria, che manca qual è? Di quello senza niente? Sì, quello che c'è in macchina. Ho capito. Vabbè, poi qua ci vediamo. Non è urgente. Ui, bella di Eugia, non era brutta, sembrava brutta stamattina, poi un po' si è aggiustata. Ma secondo me stava anche un po' piovigginando. Poi ha smesso. C'è stato un umido stanotte, c'era la macchina tricciando, sono uscito. E quindi, e adesso fuori c'è caldo, se vai sotto il pino ti congeli, se esci, praticamente tra poco corre il cappotto per andare sotto il pino e le maniche corte per uscire fuori dal pino. E ci conferma, è proprio così, hai detto bene. No, io sono uscito verso le 8:30, sono uscito in macchina. Ho trovato un posteggio di via Roma, sono andato a piedi, ho fatto quello che c'era da fare, capito? Basta. E poi non sono entrato a casa, non sono andato da nessuna parte perché anch'io ti ho detto non sono in netta forma, ho sempre dolore, insomma la schiena, il collo, allora mi sono rimasto a casa. Quelli sono i tuoi vicini? Quelli pochi, quelli che ci sono in quella via là, che sono pindacci, non sai, sotto terra c'hanno i pupazzetti, no? E si giocano, a pungere a destra e a sinistra, chi va in pensione. Che miseria, davvero. Non sto scherzando, proprio una cosa allucinante. Sono sempre dolori. Da quando sono a casa sono sempre dolori. Sto soffrendo molto del movimento della schiena, ma soprattutto la cervicale, cosa che prima sì, sentivo qualche volta, qualche mattina così, quando c'era molta umidità, un po', però adesso è proprio allucinante. Infatti, guarda, la cura sarebbe trovarti un extracomunitario di quelli ben piazzati, darle un po' di insulti finché ti picchia, e quando ti picchia tu le mostri la schiena, lui te la rimette a posto lui. Però quelli grossi, quelli alti 2 metri, non so, ma mezzo armadio. E i cazzo quelli ti ammazzano, cioè, un corpo ti ammazzano, che sono un po' costosi, che sono delle pietre. Appunto, se la cura non esce, vuol dire non sentire più dolore, no? Infatti. Non si sente nessuno stasera, ho visto che c'è traffico del 23, ma io continuo a essere solidale al mio canale 10, e rimango qua, se vogliono passano loro. Va bene, va bene. No, ieri, sì, ieri mattina sono salito sul tetto e ho iniziato a fare un po' di piastra pulita. Tanto le direttive VU le ho già conservate, smontate e conservate, perché quelle viene bene a togliere tutto il rotore, che erano basse, capite? Quelle sono leggere, le ho tolte, tutto il rotore, chiavi, tutto, ho già conservato tutta quella parte lì. Infatti adesso c'ho il 275H che è senza antenna, no, me ne fotti niente. Non mi interessa niente, c'ho l'820, uso quello. Per il traffico che c'è anche lì, ui. E adesso sto aspettando che una bella giornata da mattina presto, cioè se il sole non sia vento, che proprio dia il meteo, dia proprio bella giornata, e allora vediamo anche gli altri. Ma guarda, è venuto un mio collega a trovarmi, mi ha detto: tu mi dai una mano a salire qua, tanto c'è la scala. Ma guarda Tomato, ma tu sei pacco. Gioventù rovinata, No, se non c'è gente pratica, io vabbè, c'è Tino Massimiliano, che già sono pratici. Nel loro tanto si tratta solo di abbassare. Una volta che abbassi, loro già sono, già hanno braccia. Basta mi sfidino un nastro, poi il resto me lo faccio io a terra, capito? Me le smonto, me le pulisco, me le metto dentro la scatola. Però quel lavoro bisogna farlo almeno in 3 persone, se no rischi di farti male, se ti scappa per tagliare le mani, che c'è il peso, capito? Invece l'altra era bassa, arrivavo già con le braccia, quindi piano piano abbassato. Io ho tolto quello l'ho già tolto, le due lui l'ho già tolto, adesso si tratta di togliere il sistema grande e poi siamo a posto. Ma va bene. Cosa stavo dicendo? Ma tu sei in ferie? Rientri? Quando? Siamo alle ferie, diciamo sono obbligatori adesso. Non te le prendi tu, o meglio te le prendi tu quando vuoi tu. Però una parte te lo danno loro e hanno chiuso tutto, proprio a Sarrado. Quindi bisogna rimanere a casa, poi lunedì si riprende. Ma vabbè. Quindi lunedì rientro, il 30 non ci sono, l'1 è di nuovo festa e poi non lo ricordo più. Lunedì si è a lavoro, quindi allora magari lunedì lasciare in macchina, lunedì magari 2 secondi passando me lo dai al volo col carretto. Non c'è né carretto, tu sei più tardi con il carretto e io carico. batteria, la tazza del caricabatteria, ma c'è il cavetto. Sì, vabbè, è la tazza del caricabatterie. Vabbè, vabbè, ma che non faccia bella, bella giornata, ci sono in campagna, ti chiamo. Non lo so se ci andiamo, c'è mia moglie che non sta molto bene di nuovo. Anche lei è un po' dolore. Vabbè, vediamo. Se vado in campagna magari ti chiamo, noi siamo vicini, ci vediamo dove ci siamo visti l'altro giorno. Se no, lunedì ti faccio uno squillo, dopo il porto il carro verso le 10. Passo e me lo dai. Va bene, va bene. Però al limite ci possiamo incontrare lì, all'inceneritore, all'ingresso, così se c'è qualcuno ci prende tutte e due e ci risolve tutti i problemi, sempre che sia ancora in funzione. Non lo so, lo sai, non lo so, quello su dove vado io? È un fuoco di lì, no, per noi già ce l'accendono, dai, tanto magari ci buttano un po' di benzina. E così almeno siamo anche a caldo. Un po' di calore, dici tu, va? Vabbè. Allora, anche quello. No, è un momento che aspetterà tutti. Tanto. Si bruciano tutti. E infatti, poi non sentato di già testa a male, no, mamma mia, che periodo. Che è stato in merda, veramente. Senti solo di malattie, dico. E poi ti tocca sentire anche con questi bastardi, perché tali sono, di operatori telefonici. Controllando io ogni tanto faccio delle verifiche, perché i telefoni li gestisco anche tramite online, no? Vado a controllare perché sono, come si dice, non mi fido molto di questa gentaglia. E mi accorgo che mi hanno più fatto un servizio. E ho subito chiamato e ho detto, ma no, non sappiamo niente qua e là, capito? Un po' 4, un po' 2, un po' 1 euro, e non so neanche per che cosa, su un numero mai visto e mai conosciuto, di questa cosa qua di Milano. E quindi ho detto, disattivate immediatamente tutti, ho visto subito denunciando la polizia postale. Questa cosa l'avevamo fatta mia sorella qualche settimana fa. Adesso questo, ma noi qua, noi là, non c'è problema. Tanto il telefono è scarico, adesso si va a scarico fino alla scadenza della SIM. E andate tutti in puntini, puntini, puntini. Hai capito che è una truffa che stanno facendo a tutti e stanno guadagnando un pacco di soldi. Tu fidati l'anziano che c'è il telefono lì, va, e non sa neanche cosa sta pagando, sono veramente dei delinquenti. Sì, hanno un po' così di stronzate su questo telefono, io già non rispondo mai a nessuno. Mi affutta serio. Mia moglie mia è sempre su internet con questo telefono, infatti mi arrivano un po' di messaggi. Non dico, non rispondere, no, non lascia, ignora, cancella subito, no, di tutte le maniere. Pubblicità a nastro, tutte le ore, pubblicità, a me non mi arriva niente, perché io non c'ho niente. Vedi, quello sarebbe bello, purtroppo qua non è così. Anche io ho pensato, tu figurati che mi hanno attivato i servizi su un telefono che non è proprio un telefono, più che altro una radio, perché è quella che uso per il collegamento a grande distanza, e c'è la SIM dentro, telefonica, e siccome si collega alla rete, però solo per comunicare, quindi è una cosa molto precisa, sai, è come andare solo sullo stesso server e basta. Nonostante tutto ci sono riusciti, infatti ho detto, ma com'è possibile? Io neanche ci navigo con questo telefono e poi mi ritrovo questa cosa. Quindi la mettono loro di loro iniziativa, senza aspettare neanche che tutti i colleghi, capito? Sono una massa veramente allucinante. E Team Vodafone, Wind e anche l'altra che ci sia mischiata, ci hanno già anche una riserva al garante, ma tanto non ne ho fatti nulla. No, oggi veniva a fuggire. Non ne frega niente, no? E comunque è sempre la stessa storia, se non ci vuole un tanto di ferro qua. Ogni angolo è pericoloso, proprio un periodo di ladrocini veramente micidiale. Hai sentito, sì, che perfineranno la benzina, sarà oltre 2 euro. Ma ho sentito, ma cioè cosa vuol dire, che aumenta? Perché non hai messo in questi giorni? È già passata 1,60 e fischia. Perfineranno, ho chiesto al fornitore, guardi, al 90% per fine anno superiamo anche 2 euro. In continente sono già 2 euro, 2,10 euro, 2,20 euro qualcuno, quindi guarda, sta diventando un bagno di sangue. Per carità, vabbè, bisogna che sia una mossa al governo, unificare i prezzi della benzina. In altre nazioni è più bassa, come mai? In Italia è la più cara di tutti. Ah, perché sono una manica di pezzi di piglia, eccetera, eccetera. Sono tutti... Guarda, per conto mio, dato che oramai stiamo andando come stiamo andando, io avrei fatto una cosa. Tutte le strade, a parte quelli mezzi particolari, le avrei chiuse a questo punto e dato l'incentivo per pigliarsi la bicicletta elettrica, che è quasi un ciclomotore volendo, tra l'altro, quindi te lo metti in casa, te lo ricarichi e vai in giro, è buono per il secchio, e la macchina si rampi, insomma, lo faccio buttare. E di mano tutti la pensano così. Aspetta, vado a bere, Gianfra. Quasi quasi mi assuccio. Ecco, via, mi butto una bibita, cosa? Ho preso un succo e pompelmo, lo sto bevendo tutto io. Fa un po' di acidità. No, io ho bevuto un po' di una bevanda che uso quando vado in bici per il pochetto di Tetano, integratore. Oi, questa Italia, povera Italia, come sta andando a me? No, metto la torina. Non mi piace su quel pompermo, quelli hanno essere così. Ho preso l'altro giorno la Conad, fresco. Non bevo la sera. Va bene. Non si sente nessuno oggi, tutti morti già. Stanno tutti al mare. Ho fatto i primi bagni, le prime abbronzature. Non so, non ho sentito già anche ieri. Vabbè, ieri stavo ascoltando, stavo facendo quella, provando la radio. Non si sta neanche a Gianni lo profeta, attento Gianni, in questi giorni è un po' giusto ragazzo, bisogna tirarlo su, qualche biondona ci vuole. Non solo a lui mi sta, anche l'altro Gianni è molto giù, cioè sta male, Gianni doppio rumbo, oi, e sono ancora giovane loro. Gianni c'ha 60 anni, fa ottobre. Quindi faccio novembre e c'è questo problema, cazzo, mancoli a piedi, speriamo bene, è una brutta cosa, adesso vediamo se riesce a andare via, cosa vuoi ti dica, è proprio vero, uno più male sta e più a calci in culo viene preso. Ancora niente, tra poco rimaniamo senza medici. Stamattina, dopo che ti ho chiamato, sono passato dal mio perché mi serviva una ricetta che faccio una volta al mese. Non ho neanche frenato, guarda. Appena ho visto cosa c'era fuori, ho tirato dritto. Oramai ci può andare solo per appuntamento. E basta. È un disastro, guarda. Dovunque tu passi, nelle strade, vedi questi assembramenti, poi guardi bene perché c'è l'etichetta medico, è un disastro, sta diventando, infatti mi ha detto che non ce la fa più niente il mio medico è abbastanza bravo, una donna, ma guarda, non fa più adesso, non è possibile. Troppi, no, tutti i giorni, sa quando apre, non sa più quando chiude. Mi dici, anche il mio, non pensare che io se devo fare qualche ricetta lo chiamo. C'è la segretaria, me la prepara, entro e me la danno e vado. Se a fare la fila per fare una ricetta è un casino. È un casino. Un dirigente c'è, certo che sì. No, anch'io chiamo. Di norma chiamo, però devo andare il giorno dopo. Secondo gli orari non coincidono. Allora vengo in questa ditta perché non è che posso attendere un giorno di ferie per andare di lì. Che magari poi non riesco neanche a entrare perché ne trovo 20, 30, anche gente fuori, no? Non esiste. Sta diventando tutto uno schifo veramente. Cioè è sempre peggio, Il meglio non si vede mai in questo paese, è tutto peggiorativo. E così funziona. Così funziona. Vabbè. Quindi ti trovi meglio con la battimobile dell'altra. L'altra l'hai lasciata. Guarda, mi sa che non hanno neanche venduta l'altra. Adesso qualcuno appena l'ha vista ha detto no. Questa non la vendiamo neanche. Sono portata a casa subito, perché non l'ho trovata più da nessuna parte. Proprio era il gas, quindi figurati che fine ha fatto. Il mio collega ne ha preso una, lo stesso è rimasta una scenica addirittura, abbastanza grande. L'ha presa, è rimasta a bocca aperta, ha detto scende da Rizzano con 25 euro e tornare e ti rimane ancora carburante. Ma se lo sapevo la prendevo 10 anni prima, e anche di seconda mano, Infatti io sto combattendo già da quando l'ho presa, la mia, per chiedere la modifica al gas, ma hanno detto che il kit c'ha dei problemi, è cosa che è il migliore di Sassa, ne ho. Mi ha detto aspetta un po', vieni prima delle vacanze estive e così vediamo se l'hanno messo a posto, perché installato su una macchina nuova così è un peccato, poi succede qualcosa, capito? Ma qua se la mettono a 2 euro veramente cioè non conviene, sai, questa se non è cosa. Io al giorno mi faccio solo per lavoro 16 km andata a terra e torna. Come facevo io una rossa su tutti i giorni, più o meno sono quelli, 16 andare, 16 a tornare, 12 andare, 12 a tornare, se non mi ricordo quanto so, però è così. Uia, da chi vai, da Cadetto? Mi pare che sia lui solo, no? È il meglio. Non c'è molto bravo, non c'è anche gli aggiornamenti, tutte le cose, dall'officina organizzata, porta una macchina nuova, quindi sì, penso che sia il migliore in assoluto. Adesso dove pensi tu non c'è più. Dove? Non c'è più lì. No, adesso lo sai dove c'è Elia, nella via che ti porta, come si chiama, che va. Insomma, la via principale, no? Guarda, che dalla rotatoria praticamente va verso Auschwitz. E lui è dove c'è Elia, non sai dove è Elia, dove c'è anche il bar, ci sono quei due bar, uno di fronte e l'altro, c'è anche uno grande, enorme, che hanno fatto da poco. Dove c'è la Renault, quello è roba, tu lo sai chi è, sì, lui è il genere Tramellino, quei capannoni sono il Tramellino. Dove c'è, esatto, di fronte alla Renault, un po' poco più in là però, più verso quello che fa, che ripara le ruspe, eccetera. Sì, quelli sono capannoni del suocero, dove c'era la Serra Salotti, ti ricordo, Tramellino, lui ha iniziato lì, proprio lì. Lì è tornato, evidentemente quel capannone costava troppo, dove era prima. capito? Ma c'è quella roba sua, roba del suo, c'è roba di lei, della moglie. Infatti le conviene. Ed è molto in fondo, no? Perché c'è quello. Si entra in una via abbastanza stretta, ma di quelle viucce che c'è, si entra di lì e poi si va in fondo, e lì c'è lui. E c'è anche un piccolo piazzaletto, non grande come quello di prima, però insomma, già si arrangia, dai, non è un problema. Sì, no, ma poi ripeto, l'ho iniziato lì un po' più avanti, proprio dove c'era Travellino, adesso c'è le cose dei cinesi, quella del suocero. Sicuramente lì ha chiuso chi c'era e si era ripreso lui. Ha fatto bene. Meno costi, bisogna risparmiare, oggi bisogna risparmiare. Costano parecchio i capannoni così. Sì, un bel posto, dove era prima era un bel posto. Caspita. Bello grande tutto, però. Se ha deciso di andare lì ci sarà un perché, vuol dire che risparmia quattrini. Infatti. Poi c'era anche. C'è anche il personale comunque, visto. Quindi. Comunque c'è il ponte, c'è tutto per controllare la macchina, quindi non è altro problemi. Ha preso una foto di una macchina che ha preso, sarebbe ferito. Sapete, ne scappa la visita, sicuramente l'ha fatta a gas, perché non è quella macchina, neanche la può muovere da questa. Se è capitato di vederla, la stessa wagon dalla questa, anni, che ti posso dire, cioè, primi anni 60 forse. E che marca? Chrysler, americana, l'auto americana, detto quelle che avevano le station wagon con le fiancate anche in legno, non te lo ricordi? Avevano i film tipo quelli, che ne so, di non mi viene adesso, di EPD, ecco, con le macchine lì. Ma non deve essere la sua, deve essere il cognato c'ha la macchina d'epoca. C'è anche una bella 500 Abarth, bellissima, celestina, gira spesso a Sassi, sicuramente è del cognato, la userà lui, ma è del cognato, no, lui c'ha la, non mi ricordo cosa c'ha, perché c'ha un Audi A3, e Marina c'aveva la Scenic, sì, c'aveva la Scenic, ultimo modello. L'ultima volta che l'ho vista, perché ci conosciamo da tanti anni, io andavo in campagna con la banale Maggiore, no, d'Antonio, dal padre di Lucio. Tutte le domeniche noi andavamo lì a San Giorgio in campagna, tutte le santissime domeniche. Se non scendevamo, allora si cazzava. E quindi c'è un bellissimo rapporto con Lucio, la moglie, col fratello, insomma, con tutti, capito? Perciò sicuramente del fratello di Marina la macchina, perché so che lui c'ha la macchina d'epoca, fa anche i raduni, capito? È iscritto al club auto. Può darsi. Ma è questa, sono per dire, è quella che c'ha il sedile unico davanti, no? Le marce al volante, quegli interruttori vecchi che il cucco, ma adesso ci può anche dormire. Adesso non so se i sedili si possono abbassare, ma anche se non si possono abbassare, ti corichi di traverso, o davanti, uno davanti, uno dietro, avvolgia, se ti rimane un cofano e ci sta una moto dentro. Se fai girare a Sassari non trovi un posteggio, perché è come circolare con un furgone praticamente. Sì, è un bel grande, quella PlayStation grandissima che si apre. C'è il vetro di dietro che si abbassa, grande. Sì, già la conosco, Lì c'è il sedile unico, e tre posti davanti, mi pare, tre posti dietro. È un bel grande, c'è un bel bagagliaio. Sì, ma deve essere delle. Cioè, ci vado a trovarla, se mi hai detto non voglio, ci vado a trovarla. Quello che mi capita di passare lì, ma non sapevo che era lì Lucio. Perché dove era prima era di mano anche, capito? Invece lì è più vicino, quindi se mi capita ci vado a trovarla a vedere questa macchina. Allora, se vai andando dalla rotatoria, rimane praticamente di fronte alla Renault, no? Quindi non è solo sul fianco della Renault, ma è sul fianco opposto. Quindi cammini piano, quando sei in quella zona ti guardi che c'è, noti in fondo il cartello, già lo sai, no? Qual è? C'è scritto, vai fino in fondo. E lì c'è lui, perché non si vede molto da fuori. Sì, e dove praticamente di fronte a Renault c'è quel bar, si va un pochino più avanti, si entra in quella stradina, si va e lui è all'interno. Ecco. È registrato. E, sì, esatto, più o meno è lì. È una di quelle giuste strette, che infatti è senso unico, poi si fa il giro del campannone, che non mi ricordo cosa è quel campannone che c'è lì, che negozio sia, eh. E poi se ne c'è dall'altra traversa, anche quella ovviamente è senso unico in fitta. C'è un break che mi sembra di riconoscerlo, anche avanti. Eia, buonasera a tutti Marco. E beh, che si dice in queste contrade? Claudio, riprenditi. Che si dice? Che pensavo che eri morto, che si dice? Mi ha dato di vai in lì. Quando ti riprendi, quando ti sale l'umore, ti fai sentire, che si dice? Niente da dire, io e Gianfranco a fare due chiacchiere, giusto così a mazzare un'oretta e basta. E tu cosa ci racconti invece? Solita storia, umore alti e bassi, ogni tanto accendo, però vado, cioè vago da una strada all'altra, così. E poi tutti gli hobby miei sono casalinghi, diciamo, molto, troppo casalinghi, e praticamente, ti ho detto, è sempre una vita un po' da recluso, ma adesso vediamo con l'estate se c'è qualcosa. Poi ho visto situazione vento, l'antenna non ha fatto una piega, credo di trovare mezzo stilo senza la reale, invece non pervenuta, vedo che non, credo che abbia passato peraltro di peggio quell'antenna lì, e il fatto che sia sottile aiuta, dai. Va bene, detto ciò, mi sto per mangiare, già lo sapete che ho orari sregolati, quindi non viene male anche entrare e fare queste cose, dai. Un salutone, ciao Gianfranco, ciao Claudio, ben sentito dopo tanto. E se posso entro, Claudio, perché boh. Vabbè, dai, non voglio assillarvi con i soliti discorsi già fatti e rifatti, dai. Mi ha telefonato lì Coso, volevo uscire, però oggi no. Penso devo ancora pranzare, figurati, quindi niente da fare, anche oggi a casa, dai. Core T o Core X, vai Gianfranco, ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao Marco, eravamo preoccupati, Infatti mi dimenticavo sempre di chiamare anche a Claudio, che prima l'avevo fatto, ma anche lui non sapeva niente, evidentemente. Boh, vabbè, che vuoi dire? Buona serata, buon pranzo, cercare di entrare, fatti vivo. Riprendi Claudio. Ehi, vabbè, Marco entra, esce così. Anche lui c'ha i suoi problemini, va bene Marco, dai, ci aggiorniamo, fatti sentire, cioè, siamo sempre qua, quindi siamo fedeli al nostro canale, siamo qua, va bene, quanta voce, sì, Gianfranco, ma te lo so, lì c'è la cappone di Elia, quello del vestiario, cos'era, abbigliamento, guardate. Prima di Elia, anzi a fianco ad Elia c'era Russo, capanno di Angelino Russo, dove anche lì vendeva abbigliamento di tutti i generi, anche da lavoro, poi si è spostato di fronte alla piazzetta. Elia non lo so, ma c'è ancora Elia o ha chiuso? Non lo so, l'insegna c'è, i cartelli ci sono, però non mi ricordo anche cosa vendeva, se io mi ricordo Russo, sì, perché quando ero piccolino era in via Casso, via Buccari, insomma in via San Francesco, un paro del Pombo, me lo ricordo lì, e c'era Russo, Tramellino, che forse erano tutti una famiglia, poi quando hanno creato Predanieda si sono portati lì. Sì, ma Russo ha iniziato proprio lì dove c'è adesso, dove c'è adesso Nuccio, sicuramente, perché erano lì i capannoni, c'era Lia, Russo, poi qualche altro, poi Russo. Lucio si è spostato di fronte alla piazzetta, lì, invece lì è rimasto lì, adesso è tornato Lucio anche qui, anche lì è iniziato lui, c'era Tramellino, Tramellino c'era, adesso c'è quel negozio grande dei cinesi, e io vabbè, non dire che se è tornato lì, te l'ho detto, c'era un perché, non dire che risparmia, meglio così, come quando si rampa di Nine, mi affitto ai capannoni, va bene, va bene. Con Russo che sarebbe il figlio di Russo che c'era in Via San Francesco, quando lui era piccolo eravamo credo nella stessa classe, non mi ricordo se era elementare o dove, quello robusto, no? Che è sempre rimasto robusto. Era robusto, era piccolo, e quando è diventato grande non era robusto, era obeso. Vabbè, sai com'è? Robusti siamo noi, già fra. Noi siamo robustelli, ma non siamo obesi. Ma lui, allucinante. C'era una differenza dal fratello. Angelino era sempre bello etichettato, sempre. Lui, c'aveva l'extra large, non lo ricordo. Beh, all'epoca era il meglio, del materassi, della biancheria, poi erano specifici, no? C'erano lenzuola, quelle cose lì, forse qualcosa di tende anche, ma sempre lì erano proprio specializzati in quello. Sì, vabbè, poi hanno preso anche abbigliamento da lavoro, tutta, capito, tutte, grembiuli, tutto, avevano scarpe di tutti i generi. Di fronte alla piazzetta però, mentre dove erano prima non mi ricordo, io ci ero andato una volta lì, che l'azienda aveva comprato della roba, capito? E ce l'hanno i fratelli di Nagia, a fatti di e hanno fatto bene, quando sono fatti onestamente i soldi vanno sempre bene. Io me li ricordo da quando ero piccolo, c'era un negozietto, quindi piano piano anche loro sono fatto la loro strada, hanno fatto indubbiamente anche loro sacrifici. Ma io mi ricordo invece un negozietto che c'era, sicuramente, io non so adesso se tu eri della zona del Monte o delle zone di lì di Cappuccini, via San Francesco, dall'alimentare che c'era quando ero piccolo di San Calvino, non so se l'hai conosciuto. Alimentare di Sino Gavino, ma salendo via Grazia Deletta? No, in via San Francesco. Via San Francesco, ma quell'alimentare che rimaneva sotto il portico, sotto il porticato? Sotto il porticato? No, il porticato non c'è né in via San Francesco. Dopo il porticato? È praticamente una palazzina. Dove sotto c'era un coso. C'erano due pilastri e lì si entrava, c'era un negozio di elementare, perché per San Francesco ci abbiamo una casa proprio di fronte alla chiesa, quel palazzo antico che c'è, capito? Al terzo piano c'è un appartamento mansardato, sono due mansarde accoppiate, 200 metri quadri, quindi ci andavo spesso lì perché c'erano gli uffici di mio cognato, capito? Non ricordo questo negozio. Ma sto parlando che io ero piccolino, avevo avuto 12-13 anni al massimo, quindi era sicuramente, quindi conoscevo il bar, almeno il bar sì, c'era quello che fa angolo con Viale Caprera, se non ricordo male, che era di Dionisi, no, una cosa del genere, il cognome era. Poi c'era l'altro più giù, che si chiamava Gavino, che faceva angolo, proprio alla fine di Viale San Francesco, dove ci sono i semafori praticamente di fronte al mercato, no? Che ti portano di fronte al mercato. E quello è mitico, il bar del signor Gavino, quello era mitico, certo l'ho conosciuto sì, Napoli, con la nuova via di San Francesco, rettiera apposta, mi fermavo lì, oppure niente, via Pasqua, ma questo supermercato, cioè questo negozio di elementare che stai dicendo tu, io uno l'ho conosciuto, era praticamente sotto una palazzina dove c'erano due pilastri, praticamente il primo piano, no? Dove c'è il poggiolo, si entrava sotto lì, un negozietto era, dai. No, questo era proprio dove c'era un palazzo lì, non so se conosci le strade, cioè anzi i palazzi dei Multidatti, no? Era di fronte a quelli. No, e allora non lo so. Non me lo ricordo neanche, fra. Magari l'ho visto ma non me lo ricordo. Visto di sicuro, poi sai, proprio gli alimentari sono quelli che ti passano di mente subito il bar, magari è una cosa che uno di nota di più. Ma gli alimentari, cioè, c'erano talmente tanti all'epoca che non esisteva neanche per la niente, figurati quindi. Figurati tu. Dundurundu, comunque sempre bei tempi erano quelli, Gianfra, si girava, si faceva, c'era denaro da spendere, adesso non c'è più denaro da spendere. C'è denaro da spendere, ma ce n'è sempre per le giabiture, all'epoca giabiture non ce n'erano e quindi soldi servivano per vivere, per pagare le bollette, per mangiare. Altro non potevi fare, capito? Purtroppo era così. Io vabbè, ma cioè, alla fin fine lì ho un po' vissuto tutto già fa, perché lo sai meglio di me. Si viveva molto meglio, questo denaro ormai non serve più a niente, già fa. Non serve più a niente, io cambio 50 euro, cazzo, due giorni non ne ho più, eppure non ho vizi, non è che. Ma giusto per fare la spesa, esci con più due stanzate sono 20 euro, cioè 20 euro sono le vecchie 40.000 lire, ma ci rendiamo conto. E quando vai a fare benzina sono 120.000 lire, lo stipendio dell'epoca. Infatti io conto, c'è 50 euro di benzina, 50 euro, vabbè nella mia non ci stanno, ne metto 40, 45, dai, una piccolina, la grande ce ne stanno 90. Di gasolio, 90 euro, cioè, minchia, 90 euro di gasolio, ma cioè, ti rendi conto? Che costa poco di meno la benzina, quindi, siamo lì. Ah, è tutto, mamma mia, per carità. Sembra strano, non si stava meglio dal punto di vista economico, perché, diciamo, c'era molta gente che tirava veramente la cinghia, anche la classe media, diciamo, io mi ricordo un mio amico, il padre era professore, ma professore di scuola media, ma gli stipendi erano quelli che erano, che si facevano grandi salti, cioè si stare attenti per arrivare a fine mese. Sì, bisogna stare attenti anche adesso, Gianfra, no, è che puoi fare salti mortali. Non ci manca niente, grazie a Dio, però devi stare attento. Stravizi che facevamo prima non si possono più fare, assolutamente. Le uscite che si facevano prima non è più così. Bisogna stringere. Dove vuoi va? Purtroppo. È il casino per i giovani. Per i giovani veramente è problematica la cosa, non ci sono prospettive, in più stanno ereditando dei problemi talmente grandi che neanche loro se ne rendono conto. E come fanno a rendersene conto? Oh, ormai mia figlia è una diplomata. Ha trovato subito lavoro, c'è già un bel po' di anni, c'era scritta anche all'università, ma col lavoro che ha lei non ce la faceva, quindi ha mollato, però l'importante è che stia lavorando, c'è il diploma, già va bene, però non è facile, amici, e ho avuto molta fortuna. Come me, d'altronde, ho iniziato da ragazzino a lavorare, quindi, però, adesso chi termina di studiare, trovare lavoro è una grande difficoltà, cioè no, non c'è più niente per nessuno. Infatti, questi sono i risultati di quei pezzi di... vabbè, ci siamo capiti, che dicevano che bisognava scordarsi sul posto sicuro, quasi fosse un delinquente che c'era il posto sicuro. Il posto sicuro ce l'aveva anche all'epoca il falegname, ce l'aveva chi riparava, che ne so, televisori, che il macellaio, chi c'aveva l'alimentare. Adesso invece sono tutti precari, gente che non si può comprare casa, che non si può comprare macchina, e poi si lamentava l'economia ferma, avete voluto così, e adesso siete contenti e felici, un branco d'asini, guarda, che voi mi pigliate il cuffiano al muro, però tutti i figli sistemati di questa gente che parla così. Infatti prima i tecnici, anche tecnici TV, tecnici riparazioni, insomma. Qualcosa la faceva, una giornata la toglieva, adesso non ripara più il televisore, no, si brucia, si rompe, vai, devo anche te lo compare di nuovo, ma c'è quel motto, capito? Ma tutti i calzolai, non esiste più la vecchia guardia di prima, perché non c'è più il tanto, è salito troppo, il costo del denaro è salito troppo. Non si muove assolutamente. Infatti. Il guarda, avanti ieri sono salito a Usilo, no? A fare poi i ponti radio che ci sono. Poi sono sceso e ho incrociato il raggi PC che esiste ancora. Ma con Tonino veramente è sempre sarrato, deve essere proprio, ma secondo me quello è stipendiato, perché è impossibile aprire un negozio alle 10, alle 10 e mezza, è tutto pieno di scatole, per le poche volte che sono entrato non apre neanche le scatole. Guarda, ha cambiato, era una persona grandissima, io l'ho conosciuto negli anni che furono, quando gli è morta la moglie, lui praticamente è diventato un trasandato, non ne frega più niente, capito? È molto cambiato, totalmente carattere. Io ci ho parlato anche da poco, ho detto cosa può fare alle 9, per guardarmi le vetrine, apro verso 9:30, alle 10, ho detto, non c'è niente, no. Componentistica zero, cosettine che fate, proprio da fare la giornata. Ma io ho visto gente che vuole cambiare le batterie, non è che quello. No, vada da Tizio, vada da Caio, che ti costa un attimino, non c'è la fila fuori oramai. Io mi ricordo l'epoca quando c'era, te lo ricordi il maresciallo? Quando c'era il maresciallo, andava a fare la fila. Io mi ricordo, sì. Se non mi ricordo, sì, ma tutti, ma guarda anche Fusaro lo stesso, ha calato tantissimo tutto, non c'è molto nell'aria, non c'è molto, anche perché secondo me la colpa è anche loro, perché già fa, ma come si fa, io vado, cioè vai da Fusaro a comprare un piede di plastica a 2,50 euro, cioè non stai scherzando, io ne ho preso una scatola intera da 10, macchinetta buona veramente, ottimi, dove appoggi il serbatoio, sin quando lo stagno entra dentro, esce una serbatoia perfetta, quello ti si scioglie il piede in mano, e li ho pagati 10 euro, capito? Una scatola da 10 euro, manco spedizione mi hanno fatto pagare, ma non mi si entra la butta, me li hanno spediti, capito? Quindi Barilotti, connettori AN, tutte queste cose, il continente costano molto meno, un'antenna, non c'è niente, cioè non c'è più niente, né per noi radiomatori, né per CB, non c'è niente, devono tutti ordinare da fuori, quindi la colpa è anche loro. Ma guarda, io sono anni che prendo roba da fuori, non è perché qua ho problemi anche con l'italiano, perché le parli di un connettore a 4 pin, cos'è? Mi toccava farglielo vedere, no, questi tuffiati in giro, ho fatto tutto il giro degli autoricambi, no? Perché la macchina che ho visto è così tutta quella serie, c'hanno nuovi fusibili che sono a tre piedini. Oh, no, non esistono. E come non esistono? Cioè, poi aspetto la macchina di opporto. No, ma qua no, non ci sono. Oh, nessuno, non sapeva neanche cos'erano. Li ho dovuti ordinare dalla Cina, quant'era? 2,50 euro, neanche la spedizione era gratuita, costava più la spedizione che fusibili, e mi hanno mandato una gatta, capito? Una cosa assurda veramente. E comunque qualcuno dovrebbe spiegare come fanno negozi, che io sono stato a Milano a vedere il negozio del che c'era, adesso non mi viene il nome, quello di Milano, in via della Libertà, credo che fosse, che c'era ancora da qualche parte, che vendeva radio, di tutto. Io sono entrato in questo negozio, era un ventesimo di quello che può essere la GBC, praticamente uno scappottino. Non ti potevi neanche girare perché era tutto scappo in spedizione. E in più vendeva al dettaglio, infatti gli ho detto, guarda, mi sono detto, sì, tenga, io sono suo cliente, tra l'altro. Ah, bene, sì, guarda, io faccio sconto. Ma quando mai questa gente che ha questi magazzini, queste cose, non si organizza per le vendite online? Il fatto è che sono cari, sono veramente cari. Ma sono cari, ma poi non hanno materiale, non hanno niente già fra. A me serviva una X50, una 30, un'antenna per mettere, per avere, diciamo, per mettere sai dove. C'è un'antenna di Blattica a 70 euro, ma tu stai scherzando. Alla fine, cioè, chiami la Diamond e ti fai mandare un'antenna e come Cristiani la paghi molto meno. Cioè, allucinante, capito? Non ce n'è, a me serve una 30, una 50, un'antenna piccola da mettere nel sistemino piccolo che lascerò, e non ne trovo, non ce n'è qua. Io già ce l'ho, però è sul traliccio, non mi ricordo neanche cos'è attaccata tra l'altro, perché ne ho due, ne ho una che qua sul tetto, che è collegata alla dove è collegata lo scanner forse, l'altra poi c'è sul traliccio, perché ce ne sono tre, due sono lunghe, una corta, che praticamente è una 50, dovrebbe essere, se non ricordo male, e l'ho presa da fuori lo stesso. Adesso non so che fine farà quella retrocia, ma prima di salirci aspetto un bel tempo, non so mai, vediamo un po'. Sì, piccola, una 300, non voglio mettere un'antenna grande, una 50 è più che sufficiente, però non ce n'è qua, capito? Ha qualcosa a Tonino della Midland, a te pare di vedere un'antenna della Midland, e in plastica, quella che mi dice al caso si scioglie, c'è un'antenna buona, tipo quella Diamond, così, capito? Anche una 50, una 30, massimo una 300, che è quella a due elementi, ma non è che metto una 510, non faccio niente, capito? Giusto per fare due chiacchiere, per accendere la radio, e basta, per dirti non ce n'è, ordina le due antenne, le tieni lì, ma cosa ti costa? Stai spendendo 100 euro e tieni lì, ma dai un servizio, la stessa cosa è fusato, uguale, preciso, identico, tutto sull'ordinazione. Ma cosa vuol dire sull'ordinazione? Ma l'antenna sull'ordinazione io chiamo, in due giorni ce l'ho a casa l'antenna, e spendo anche meno. Bisogna avere magazzino, bisogna avere roba per le esigenze del cliente, se no sarà butto e va di Namari. Infatti, ma l'ho detto anch'io, perché quando mi faceva la cosa, quanto costa? Senti, ecco, lascia perdere, come ho detto. Ma questo è quello che ci fanno fare la... vabbè, penso la così. Tu guardi la GBC online, costa molto di nuovo la roba. Guarda, la X30, la SM costa 38 euro. Ed è la X30, poi c'è questa... c'è la... come si chiama? X50 ne costa 45. E poi vabbè, le altre sono troppo lunghe. X50 45 euro, guarda. 70 euro lui. Non Diamond, Midland. Midland, mi pare, Lafayette, non te ne vai, è plastica, me l'ha fatta vedere. Le nostre sono robuste, mi ha preso il vento la mia, ma il vento, però, sono la tua. Si piegano ma non si spezzano. Quelle, secondo il vento che prendono, si spezzano in due, così, o si riempie d'acqua, come era successo a mio Vannino, che le avevamo comprate alla fiera di Olbia. Una fesseria, abbiamo montate il primo acquazzone stazionario a 10, boom, finito, l'ho abbassata, l'ho smontata, dentro era piena d'acqua, sembrava una bottiglia piena, completamente piena d'acqua, tutta vulcanizzata, quindi cosa, solamente non serve a niente, già fra, preferisco spendere qualcosa in più e comprare un'antenna come Cristiani, capito? No, io ho la 7000 anche, ma non la piazza, mi serve un'antenna piccola, quella probabilmente la piazzerò quando tolgo tutto il sistema, delle direttive, allora cambio anche l'antenna, la 510 la conservo, però me ne serve una piccola, una, massimo una X50, capito? Se no potrei montare la 7000, ma l'ho fatta montare la 7000 perché cosa, non faccio niente. Sì, guarda, la diamo una X50N, sarebbe con la fatta N, che è originale, diamo perché le garantiscono, sono 45 euro, quindi penso che vada bene. Questa quanto è alta? Questa vabbè, forse in più alta perché anche c'è 50. Tutto lì. Sì, sarà poco più di un metro, perché la 30 mi pare sia un metro, una cosa del genere. Quella sarà 1,50 m, 1,20 m, non so. Però una cosa così, capito? Un elemento solo che non fletta, la devo mettere anche bassa. Lasciarla fissa lì. No, via! C'è la fretta aperta e si sta benissimo, guarda. No, il stardo mazzolontico che ci abbiamo. Speriamo non in viaggio a Brugisci, già due alberi ne sono caduti. Dice quello, non c'è due senza il tre. E io ancora non ho avuto il tempo anche di passare a colori, perché questo qua è anche inquietante, l'albero quando sta vicino c'è una scala di alluminio appoggiata e senti se farà quello mi distrugge l'officina, la fa saltare in aria, già lo sentiamo il botto. Soia, ma esatto, senti, adesso ti dico esattamente quanto è lunga quella lì. San Paolo, quando abbiamo capito la stessa, tutto mi hanno messo al di fuori della lunghezza. Mi ha fatto ricordare che quell'antenna lì, cioè io avevo preso un'antenna che è stata formidabile per anni, che era dalla Comet, l'avevo presa con la buona nella Vittore quando siamo andati alla fiera, ma proprio eccellente, guarda, una cosa, era piccolina ma c'aveva un guadagno veramente formidabile. Sì, non ricordo perfettamente. Ah, non ci sei ancora andato a vedere, lo sai, no, ne abbiamo avuto già la conferma, allora, i venti estivi sono più più pericolosi di quelli invernali, noi non ce l'aspettavamo. Mi è caduto come una pera cotta quell'albero, un pino grandissimo, ha fatto un danno micidiale, siamo tre giorni al buio, non riescono a trovare il cavo che ha tracciato l'albero nelle radici, capite, siamo tre giorni al buio, non abbiamo luce interna, perché ha tracciato sotto dove c'è l'albero, passava la canaletta dei fili della centralina, salta a salvavita, quindi l'elettricità ha lasciato abbassato, ha fatto un danno micidiale. Infatti, è così. C'ho le misure, la X30 è 1,30 m, la X50 è 1,70 m, poi se quella 200 è 2,50 m. No, perfetto, la 50 va bene, mi ricordavo che era più di un metro. Va bene la cosa, la 50, va bene la 50. Adesso vedo, chiamo a Coso domani sabato, lunedì, chiamo a vedere quanto me la fa, dove avevo comprato la 7510. Se quel prezzo però sì, anche mi faccia lo sconto, me la manda senza pagarmi, senza pagare il trasporto, per farmi lo sconto come ha fatto con la 7000, me l'ha portata a Bartolini, lo chiamo lunedì, lo vediamo, e me la prendo fuori, ma cosa era? Non avevo tappato un'antenna che si viene aveva. E che paghi anche di più poi, tra l'altro, anche quello c'è da considerare. Adesso ti dico anche l'altro prezzo che ho della X30. Qua c'hanno anche queste D original, che non so se sia una marca o cosa sia, comunque l'X30 che costa appena 35 euro, media roba, poi c'è la X50, ne costa 42,7, e poi c'è la Diamo, la Diamo qua, la X50 costa più cara, 49 euro la media roba. Sì, ma c'era la X30, la X50, la X200, la 300, la 510, poi hanno fatto la 700, la 7000, se ce n'è belle antenne, e a voglia. Sì, secondo me mi serve una piccola che non fletta, che non rompa le palle quando c'è vento, capito? E così per quando abbasso il sistema cambio la 510, che ce l'ho un sacco di anni. La metto nuova, metto la 7000 nuova e quella la conservo, anche perché era rotta e l'avevamo riparata, si era rotto un pezzo del puntale, capito? Era caduta e aveva battuto proprio la punta all'angolo del muretto e si era spezzata, quindi abbiamo messo una canaletta all'interno, è rifatta, non si vede niente, si vede solo la giuntura del nastro vulcanizzante, basta, però è sempre bianca, sta a posto. Vabbè, ne approfitterò a fare anche queste cose. Tempo buono ci vuole, Gianfra, tempo bello, buono, voglio rifare. Il tubberio non ha Giovanni Van Dunga, non so neanche io come ho fatto, oggi lo già, venerdì, ieri, mi pare, ieri mattina. Visto che era bella giornata, sono salito su e mi ho tolto le due direttive VEU, le ho smontate e messe a posto, tolto il rotore, quello piccolo, pulito tutto, rimesso tutto, non ho lasciato solo il paletto che mi può servire, ecco, appunto mi serve per mettere un'altra antenna veicolare, e ho conservato tutto, quindi una parte già tolta, adesso mi andrò a togliere quella più grande, là. Questa cosa devo fare io, abbassare due tubi, quelli da 20 metri, farli portare, poi smontarne un pezzo, smontarne l'altro, buttare tutta a terra, togliere, diminuire l'altezza e il punteggio, togliere una sezione da 2 metri, lo faccio più basso, diventa più tosto, quindi più resistente. E cambio proprio i sistemi sia di alto sia di sì, mi ricordo, se almeno ci posso salire una sola scala, anche se è stretta, però comunque l'assicuro per il clima che verranno, perché tanto miglioramenti non ce ne saranno, ci possono essere solo peggioramenti a questo punto, perché da quello che dicono ci lasciano 10 anni, ci abbiamo 10 anni contatti. Sì, sì, sì, infatti già fa, conviene iniziare a abbassare adesso, lavorare con le cose semplici, perché poi più grande si diventa e deve chiedere aiuto per la manutenzione, per fare questo. Io non voglio rompere palle a nessuno, ne tolgo tutto e basta già fra, perché non ne ho voglia, non posso farle da solo queste cose, perché non sono né all'altezza di farle né in sicurezza, perché lo serve abito. Quindi ne tolgo tutto, lascio un affilare e basta. Quando si rompe l'affilare salgo e la metto a posto, come ho sempre fatto. Qua ci vuole gente, già fa, ci vuole gente, è pericoloso, è roba pesante, quindi non l'ho piazzata io, mi hanno dato una mano, anzi hanno fatto tutto loro, io ho fatto ben poco. E adesso, appena fa bella giornata, Berattino con Massimiliano, ne scendiamo tutto, perché non la sento di stare poi a succede qualcosa, c'è anche il rotore già da controllare, perché gira una parte e dall'altra no, quindi approfitto, lo faccio controllare, lo metto a posto e poi lo conservo, c'ho tutte le scatole sui mansarda, capito? Però basta, l'ho finito, non me ne ho fottuto. Va bene, tanto io mi chiacchierò qua, 2 saluti, 2 baci e abbracci in HF quando sento qualche amico, in 2 lui la stessa cosa, ma a quelli belli va bene. Ho conservato l'amplificatore dentro l'armadio, tutto conservato, non c'ho più niente, tutto, quindi a cosa serve lasciare le antenne? Non serve proprio a niente, serve solo a creare pericolo, a creare problemi, a non dormire la notte, perché veramente quei giorni scorsi ho rischiato che ne cadesse tutto, però ho detto se ne cade, non faccio fatica a smontarle, invece ne sono cadute, maledette io. Ma infatti te l'ho detto, se è vero come è vero che il topo di queste cose lo vedremo tra 10 anni, nell'intermezzo che stiamo già vedendo ogni anno sarà peggio, anche se ascolti bene anche quello che dicono i meteorologi, ti dicono che oramai ci dovremmo fare l'abitudine a queste cose, però stiamo parlando di abitudini con sferzate di vento improvviso che ti scaraventa a terra anche colpi di 100-120 km all'ora, e non è roba nostra, e quante volte ci ha portato via quasi una settimana di vento, e non era neanche il vento, diciamo, tradizionale nostro, che è il maestrale, anche molto potente, eccetera, no, era un vento che di norma dovrebbe essere tranquillo. E invece, visto quello che ha combinato, io mi ricordo l'anno scorso, anzi no, anche qualche mese, sì, l'anno scorso praticamente, mi sono fatto sia a Punta Giglio e sia alla fine tra il Platamona, ma tu devi vedere gli alberi proprio stracciati, aspettati e stracciati, come se una mano di un gigante l'avesse presi e fatti a pezzi, ma molti però, poi basta ricordare quello che è successo sul continente, cosa ha combinato, un'intera foresta disboscata, tutta distrutta, quindi non è normale, quindi figurati da qua a 10 anni cosa succede, altro che salicio vuole. No, non esiste lasciare queste cose, non mi interessa a me, chi lo fa ancora è giovane, lo può fare, o chi non è giovane, più grande di me, per capirci, chiama e se lo fa fare, paga e non gliene fotte niente, io non ho subito da buttare e da rompere le palle alla gente, quindi ne tolgo tutto io a fare, ho già deciso, ma già da tempo avevo deciso, solo che ho lasciato, però adesso che sono a casa ho già organizzato e togliamo tutto. Aspetto, perché ho visto che è già tenuto il vento, quindi i tiranti sono abbastanza buoni e tutto l'impianto è nuovo. tolgo tutto. Tolgo tutto, intanto non faccio niente. Almeno elimino un po' di cavi qua, se no c'è una maturata dei cavi che entrano alla finestra, mia moglie sempre a voce. Non sono riuscito a mettere una canara lì perché viene male. Ho sbagliato, anziché mettere sul lato sinistro l'ingresso della finestra, ho messo sul lato destro, quindi si vero, sta sempre rompendo le palle. Perciò anche quello andrà eliminato, sarà un cavo solo, lo faccio entrare dall'altra parte e boh, però ci sono cavi vecchi che devo tirare su, cavi dei rotori, sono quei due grigi del rotore che ho già tolto, l'altro di alimentazione e ma l'ha detto a me, io l'avevo montato tutto, questo poteva star me in testa piana. Purtroppo è così. Non è neanche questione d'età, è questione che devi stare sempre con la tramarella, capito? Perché se cade fa il botto. Poi se c'è disgrazia su me, poi queste cose sembrano fatte apposta. Secondo la legge di Murphy, se ti cade qualche antenna, se ti cade qualcosa, e poi va in testa qualcuno, e quel qualcuno, o se se la cava, o i pariti che rimangono, ti rovina. Quindi, no, guarda, meglio dormire, meglio che cada un pezzo di filo, o un pezzo di plastica, che cada un'antenna che pesa, che se non so, no, sono solo preoccupazioni e basta. Ma infatti è così, la realtà è quella, più cose hai e più manutenzione ci vuole, più attenzione, sofferenza quando è il tempo brutto, fulmini, quello, è temporale, il vento, ma Goglia, ma buga di brutto intanto, lo ripeto, non, io proprio personalmente non me ne faccio niente, infatti io l'ho detto a Stefano, ho detto lì, preparati, inizia a fare poco, e come ne tolgo tutto, vieni, ti porti via tutto, do tutto a Stefano, portati via tutto, io non me ne faccio niente. Ma infatti, no, non fa. Diritto che è una stazione che cioè, passa sempre qualcuno sotto, anche perché da quell'altezza corre anche il rischio di finire in strada, poi succede un casotto, guarda, neanche a pensarci qua. Aspetta un attimo, Gianfranco, mi sta chiamando mia moglie. Ok. Eccomi. Oh, a che ora si è fatta? Ehi, 8:20, ce l'hai già, un altro passaggio, poi mi sacco, vado a portare il cagnone e poi preparare la cena, c'ho anche gente stasera, dai. Preparare la cena, dare un colpo di mano a mia moglie, riprendi. Infatti anch'io non mi ero reso conto dell'orario che abbiamo fatto, piano piano, con la finestra aperta. Adesso lo chiudo perché fa poco, anche se non sembra, inizia la gatta qua. E ci andiamo a mangiarci qualcosa. Sto guardando un po' cosa ci aspetta stanotte di film, perché guardo solo film oramai. Non sto neanche più guardando tra i giornali, perché guarda, non voglio poi diventare come il nostro carissimo amico, se lo ricordi, sì, quando si incazzava, quando voleva Prodi. Mamma mia, la baba scendeva di quanto si incazzava. Infatti, un po' mi pento che qualche volta scherzando le dicevo, è bello, amico tuo, bello, che collo. una scena, però è bello avere comunque un bel ricordo di quegli amici, quelle persone veramente in gamba. No, per me è stato un fratello grande e un padre, veramente, non lo rimpiangerò per quanto possa rimanere nel cuore, perché è una persona che mi è entrata veramente e non mi uscirà mai. Allora era un grande, per me è sempre stato disponibile in tutto, nel bene e nel male, abbiamo condiviso tantissime cose, ci siamo divertiti, e però è andata così perché lui lo sembri di me, era ridotto, non ascoltava, il suo hobby era quello che purtroppo non riusciva a mollare, non riusciva a uscirne, le incazzature che si prendeva in quel cacchio di gioco era una cosa allucinante, e più l'ultimo periodo non ci teneva la salute, perché io lo dicevo tutte le volte che ci vedevamo, cuore molla, non bere, non prendere caffè, non bere il tuo bebino, non bere quello, non fare quell'altro, e lui non mi ha ascoltato. Tu immaginate che noi ci siamo visti il lunedì e mi ha detto: domani devo andare a fare le analisi, così ti dico esattamente come sto, come lo sto, e finalmente ti sei deciso. Invece analisi non ne ha fatto, perché è morto prima di fare le analisi. Figurati. Ma a me mi aveva detto anche che aveva altre preoccupazioni. Le sue preoccupazioni sì erano altre, capiscimi al volo, ma di lì cioè, non si può fare niente, nessuno al gatto, capito? E c'era sempre quello lì che lo adorava, ma vabbè, pazienza. E Giaffra, lo conosciamo tutti e due bene, no? Lo conoscevamo, quindi lui non ha sopportato prima il problema della figlia e poi il problema del figlio, capito? E lì ha cominciato a incazzarsi, infatti mi ha detto che aveva sempre questo dolore al petto, ci ha detto fai controllati Tore, vai controllati, non essere così, non è niente, è incazzature, sono sempre nervoso, sai com'era lui, no? Sempre euforico, e invece quelle incazzature gli è costata la vita, perché praticamente gli è venuto un infarto mentre stava facendo la doccia. Vabbè, dai Gianfra, abbiamo parlato un po' di tutto, io ti saluto, grazie alle due chiacchiere, adesso mi preparo per portare il cane e poi vediamo di mettere qualcosa sotto i denti. Grazie di tutto e ci teniamo aggiornati, ok? Se ho novità, aggiornamenti, bim bum bam, ti faccio sapere, ok? Non c'è né fretta, né problemi, già lo sai, le cose importanti sono altre. E quando si arriva alla frettata, qui c'è anche, non molta, ma un pochino di saggezza per prenderla un po' come viene, senza stare lì a prendersela più di tanto. Vabbè, dai, ci sentiamo, vediamo come va a finire. Ma a me interessa soprattutto che il tempo si adesso un pochino, così me ne posso andare in giro. Va bene, buona serata, buona cena, anche io una scappa a cena, io sono presto, sai. Ciao Giaffra, tranquillo, devo solo, non ce n'è problemi. Ci aggiorniamo, ciao, buona cena, buon tutto alle prossime, ciao. Ciao.